Provate a ragionare con una proporzione. Se 8 miliardi di anni corrispondono a 24 ore, 5 miliardi di anni a quante ore corrispondono?